stato difficile riaprire la programmazione dell'associazione Kinodromo? In realtà difficile no, perché ormai abbiamo un'organizzazione che va avanti da anni e magari cambiano le persone, però il modo di porci e il peso che ha l'associazione sul territorio è un po' sempre lo stesso. Ci siamo chiesti fino all'ultimo cosa dovessimo fare, ci siamo consultati con SEAC Circuito Cinema Bologna sulla sala e sull'utilizzo che ne potevamo fare. Ovviamente la sala ha i posti contingentati solo al 50%. Il problema era meramente economico più che oggettivo di fattibilità. Alla fine abbiamo deciso di partire e abbiamo già previsto il piano B nel caso in cui qualcosa dovesse saltare in qualsiasi momento. Noi siamo pronti per fare le proiezioni online. È un'altra cosa. Kinodromo ha sempre voluto mettere la sala al centro della sua azione, cercare di riportare il pubblico in sala e di promuovere la visione collettiva davanti allo schermo, ma crediamo che in questo momento la cosa più importante sia non interrompere il flusso di film la cui uscita era prevista per questi periodi, perché interrompendo quello si va a rompere un anello della catena per cui poi tutto il settore verrebbe penalizzato. Quindi i film la cui uscita era prevista è importante che vengano fatti, e tra farli e non farli va bene farli online. Siamo attrezzati per continuare il nostro format di presentazione e proiezione anche online, come abbiamo già fatto a maggio e giugno quando abbiamo un po' sperimentato tutta questa operazione. Facciamo banalmente delle dirette streaming insieme agli ospiti che sarebbero venuti in sala, e siamo così in grado di garantire più o meno la stessa esperienza solo su uno schermo più piccolo. E con quali altri enti e associazioni avete collaborato? Per questa nuova stagione stiamo collaborando fondamentalmente con Tecnica Missa, rassegna e festival di animazione. Con loro faremo due serate e un workshop, una serata con un lungometraggio animato, la Jeune Fille Sans Main, direttamente settimana prossima, in cui faremo una doppietta, il film d'apertura il 26 e quest'altro film il 28, e poi faremo l'anteprima del festival, l'anteprima di animazione, con un workshop a Soundlab in collaborazione anche con Fruit Exhibition il 21 e il 22 novembre, e poi la proiezione di corti animati scelti dalla direzione artistica di Tecnica Mista qui al Cinema Europa lunedì 23 novembre. Con Young About collaboriamo già da anni e ci fa ridere pensare a questa cosa, ma quando le collaborazioni sono lunghe e fruttuose non ci si ricorda neanche più da quando. Ogni tanto io e Angela ce lo chiediamo e poi non riusciamo a risponderci. Angela Mastronardo, la direttrice. Con loro facciamo Russian Youth, un film per ragazzi ma in realtà per tutti. Come sempre loro fanno il festival all'Odeon, però il film un po' più cinefilo per un pubblico un po' più di nicchia, per quanto di ragazzi giovani, lo tengono per farsi aiutare da noi a presentarlo e a comunicarlo. Altre collaborazioni sono più riferite al festival Cielo Corto, sono quella che dura ormai direi dal 2016-2017 con il collettivo Inside Porn, di ricerca sulla pornografia e la sessualità in genere, che cureranno una sezione off del festival e due preview sull'editoria che riguarda la sessualità e la pornografia l'11 e il 18 novembre, sempre insieme a Fruit Exhibition, che è l'altro grosso e importante partner di tutto quello che facciamo con Cielo Corto, che è il festival dell'editoria indipendente. Per quanto riguarda la programmazione, ci sono dei film che trattano comunque della pandemia, di questo momento di grave difficoltà. Ce ne vuoi un po' parlare? Sì, i film in questione sono un lungometraggio e un mediometraggio. Saranno proiettati lunedì 16 novembre e sono Isola di Lisa Fuscas e L'ospite di Paolo Muren. Un evento molto interessante perché per la prima volta abbiamo la possibilità di vedere come il cinema ha potuto reagire a questo momento così particolare. A livello di narrazione breve con i cortometraggi si sono già viste diverse opere che hanno avuto la possibilità di raccontare la pandemia, il periodo di isolamento e il lockdown in generale. A livello di narrazione lunga, con una questione strettamente produttiva, è stato molto più difficile, e quindi la proiezione di Isola in questo senso è molto importante perché ci permette di dare uno sguardo diretto a come la narrazione anche di film film, di lungometraggi, ha potuto reinterpretare, rielaborare questo periodo così faticoso, e che in questo caso poi la questione ancora più importante è che sia stato reso in maniera del tutto leggera, nonostante sia una storia veramente tragica, perché oltre al dramma collettivo della pandemia c'è anche il dramma personale della regista, che si racconta in quest'opera e mette tutto quello che ha vissuto in questo periodo, ed è riuscita a trarne comunque una narrazione per quanto possibile leggera. Inoltre sarà un'anteprima nazionale davanti a un pubblico pagante. Ci sembrava che appunto L'ospite di Muran fosse un'opera che si potesse tranquillamente associare a questo lungometraggio, e siamo molto felici di ospitare entrambi.